fatto da questa radio in molte trasmissioni, ma anche in particolar modo anche durante le mattinate. La nostra attenzione oggi sarà un po' a una questione che riguarda sicuramente i rifiuti in maniera fondamentale, ma riguarda anche in prospettiva tutto quello che sta girando intorno ai rifiuti, sia sui territori realmente, quindi parleremo di questioni che riguardano alcuni territori in particolar modo, più a titolo d'esempio in realtà, sia quello che è un dibattito sulle prospettive, perché poi intorno a queste crisi chiaramente sono aperte, si aprono ragionamenti, addirittura iniziative di legge, di proposte di legge popolare, di cui parleremo in particolar modo anche per evidenziarne le criticità, e in generale si apre una discussione, perché appunto un pezzo del ragionamento sui rifiuti è anche un pezzo, alcuni almeno agitano da questo punto di vista, anche un pezzo di ragionamento sulla green economy, sul significato di una economia diversa, su alcune possibilità che si aprirebbero anche intorno a questi eventi che per certi versi assumono degli aspetti catastrofici spesso, no? Parlavamo prima della Campania, ma non è che in Sicilia la situazione sia diversa per tanti versi, anche se con caratteristiche diverse. E se nel Lazio ancora la situazione non è catastrofica da un punto di vista della città di Roma, cioè delle catastrofi visibili, in realtà la catastrofe è in corso da un sacco di tempo, è meno visibile ma non meno nociva per la salute, non meno complicata da affrontare. Quindi un po' questo è il tema, però su questo con la speranza o in presenza o al telefono di avere l'interlocutore che aspettavamo, che ancora non è arrivato, io proverei a fare un quadro con voi che siete qui in studio. Adesso naturalmente vi presentate da soli, facciamo prima qualcuno, diciamo la radio insomma vi ascolta già, però insomma è la mattina, per cui uno prova un attimino a presentarsi e a dare degli elementi di comprensione del perché vuole ragionare su questi aspetti nello specifico. Allora, un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici di Radio Onda Rossa, e diciamo siamo un po' gli elementi di una delle trasmissioni qua della radio di Impatto, e la mattinata appunto, come insomma abbiamo già detto, si focalizzerà più che altro su alcuni aspetti relativi a nuovi impianti legati a, come insomma spesso sentiamo dire, al settore della green economy. E cercheremo di fare un approfondimento per capire di cosa stiamo parlando quando ci troviamo di fronte a questioni come impianti a biogas e a biomassa. Sul territorio del Lazio insomma c'è una pesante speculazione in corso relativa a questo tipo di progetti, e ne abbiamo dato insomma cronaca nelle settimane passate, nei mesi passati. E vogliamo insomma cercare un po' di ampliare il discorso, entrare un po' più nello specifico e cercare anche di chiarire di cosa stiamo parlando, anche vabbè, nei limiti radiofonici della tecnicità di questi impianti e dei problemi che questi impianti sicuramente hanno. E poi come questa vicenda legata alle biomasse e alle biogas si sta intrecciando con una proposta di legge di iniziativa popolare. Per cominciare brevemente, uno può insomma cercare di spiegare biogas, biomasse. Diciamo che almeno per quanto ci riguarda la prefazione bio insomma è una prefazione abbastanza forzata, è stata messa lì da chi probabilmente lavora a livello economico in questo settore. Di bio c'è veramente poco, però insomma questa è la denominazione corrente che si usa per questo tipo di impianti. Che ne so, un esempio linguistico analogo erano le famose ecoballe, che erano ecologiche queste ecoballe. Poi l'assonanza con la ecoballa, cioè con una menzogna, insomma veniva da sé, dentro queste ecoballe c'era di tutto. Uguale ragionamento si potrebbe fare per gli impianti a biomassa e biogas, perché insomma è evidente che il bio nasconde tutt'altro. Infatti tutta la green economy gioca su questo, su questa diciamo ambiguità della terminologia, già l'idea che si chiami green economy e che quindi abbia questo portato ecologico verde è poi insomma smentito dal tipo di tecnologie che va a promuovere, ma questo avveniva insomma siamo abituati già da tempo, per esempio anche gli inceneritori venivano definiti termovalorizzatori, che è un termine che addirittura l'Unione Europea diceva che era falso, che dichiarava comunque, dava delle informazioni false a chi lo utilizzava. E insomma, per cominciare, diciamo che un impianto di questi tipi generalmente sfrutta appunto delle masse verdi organiche. Queste masse organiche che possono essere di vario tipo, da appunto le potature di siepi, foreste, alberi, alla frazione organica dei rifiuti solidi urbani. Tutte queste masse organiche vengono conferite dentro delle vasche, dentro dei silos. Dentro questi silos si innesca un processo di fermentazione forzata, perché dentro i silos viene alzata la temperatura, viene portata a circa 60 gradi, vengono immessi dai tecnici dell'azienda dei batteri che stimolano la fermentazione di queste masse, che fermenterebbero comunque, però insomma devono fermentare in una certa maniera, perché alla fine di questa fermentazione si sprigiona dentro il silos questo gas che viene convogliato dentro un sistema di tubi e raggiunge delle turbine dove dovrebbe essere bruciato e dovrebbe produrre energia elettrica. Questo è un aspetto molto importante perché appunto da quello che abbiamo visto, quello che sta succedendo, cioè la cronaca di questi ultimi mesi, è proprio la produzione di questa energia elettrica uno dei motivi fondamentali per cui questo tipo di impianti stanno avendo una diffusione così capillare sui territori e soprattutto sui territori agricoli, dove c'è lo spazio e anche la materia prima da utilizzare per innescare questo processo. Quindi in un certo senso diciamo così che c'è una parte che viene denominata biomasse, che fa riferimento alla a tutta una serie di materie prime o materie secondarie di processi di lavorazione agricoli o comunque di scarti industriali di industrie alimentari di questo tipo, e da questo punto di vista parliamo di biomasse. Il biogas fa più riferimento ai rifiuti, forse anche per tornare al concetto di rifiuto, per tenerlo fermo. Adesso io la butto lì da ignorante, in maniera tale anche le persone che ascoltano insomma farebbero delle domande di allora. Questo tipo. Guarda, innanzitutto c'è da fare la distinzione tra centrali a biogas e centrali a biomasse. Non è una distinzione proprio così radicale, nel senso che le centrali a biomasse puntano a bruciare la massa organica. Quindi generalmente è anche un rifiuto un po' più secco, non so, viene dalle foreste e così, e quindi l'energia deriva direttamente dalla combustione, mentre le centrali a biogas fanno appunto questa fermentazione attraverso questo digestato, producono un gas e poi è il gas, questo biogas diciamo, che viene bruciato e da esso viene prodotta energia. Quindi le biomasse in realtà diciamo funzionano con un caminetto, grosso modo, se la vogliamo mettere proprio semplificata, cioè un grande caminetto che produce calore e quindi energia, grosso modo. Sì, è la combustione di un rifiuto solido, mentre di un certo tipo, appunto diciamo considerato biodegradabile, poi che tipo di rifiuti ci finiscono dentro è tutto da vedere, mentre il biogas è la combustione di un certo tipo di gas che viene prodotto dalla fermentazione di un rifiuto solido ma di tipo umido. Sì, allora, poi insomma noi abbiamo anche tirato fuori la parola rifiuto durante la nostra, cioè questa spiegazione, perché appunto si possono utilizzare parti organiche prodotte dalla potatura di siepi e quant'altro, dalla potatura dei boschi, ma si può anche utilizzare appunto le parti organiche che avanzano da lavorazioni di tipo alimentare e si possono appunto anche utilizzare la frazione organica che è del rifiuto solido urbano. E qui insomma il capitolo diventa veramente spinoso, perché insomma ci rendiamo tutti conto della situazione tragica in cui magari questa regione si trova. Cioè noi ci troviamo ad avere insomma discariche di tal quale tritovagliato dentro gli impianti TMB. L'impianto TMB dovrebbe fare separazione della parte umida dalla parte secca. Alla fine della lavorazione del TMB tu hai una parte secca di pessima qualità ed una parte umida di altrettanta pessima qualità. Questa parte umida rischia di finire appunto dentro le camere di digestione degli impianti a biogas e dentro queste camere sprigionare il gas e essere bruciato. Quali sono le criticità? Le criticità sono, cioè, che si ravvedono da questo tipo di operazione. Sicuramente insomma l'aspetto della combustione è centrale. Logicamente ci troviamo immersi in un'economia dove attraverso la combustione si ottiene energia per la maggior parte dei casi, e quindi di nuovo si ripropone questo tipo di tecnologia. E ok. E poi c'è l'aspetto sicuramente ancora più pericoloso e purtroppo ancora più oscuro di che fine fa tutta quella massa organica che viene digestata e di che qualità è questa massa organica. Se pensiamo a una centrale a biogas nella quale si conferisce la parte umida del rifiuto solido urbano, alla fine di una lavorazione di questo genere quasi sicuramente potremo trovare anche diossine, perché è evidente che in mezzo alla fine della lavorazione del TMB e all'estrazione della parte umida, plastica, carta e residui di qualunque tipo ce li troviamo sicuramente in mezzo. E quindi abbiamo sto digestato di pessima qualità che purtroppo le aziende che già operano nel settore invece propongono come compost, fertilizzante, tutta una serie di aggettivi e sostantivi che non corrispondono alla realtà. Abbiamo pescato un paio di sentenze, una della Cassazione che chiaramente spiega il fatto che alla fine di una lavorazione di questo genere non si può pensare di considerare il digestato come un fertilizzante, ma è a tutti gli effetti un rifiuto speciale pericoloso. La pericolosità è data principalmente dal fatto che appunto i batteri che agiscono rischiano di rimanere dentro il digestato stesso ed essere poi riversati nei campi sotto forma di fertilizzante. Abbiamo un po' nelle settimane passate anche cercato di documentarci e documentare su parecchi casi di contaminazione sparsi sul territorio italiano. Purtroppo la pianura padana è uno dei posti più pesantemente colpiti da questo tipo di operazioni. C'è stato un po', insomma, un caso abbastanza emblematico del mais cancerogeno che è finito negli impianti, e il rischio insomma è quello che i funghi che hanno prodotto il motivo per cui è canceroso il mais il digestato contiene ancora questi funghi, e questi funghi rischiano di contaminare di nuovo i prossimi raccolti, insomma innescando un processo che prima di tutto prenderà alla gola gli agricoltori, perché si ritroveranno sempre raccolti contaminati, e l'unico modo per ritornare appunto economicamente è quello di portare i propri raccolti a questi impianti, innescando un processo che è veramente pericoloso. Sì, volevo fare un altro esempio di cui avevamo parlato anche un paio di settimane fa. Il 18 maggio nel Veneto è stato scoperto, nella zona del Padovano è stata scoperta un'epidemia di botulino che era legata alla presenza un'epidemia di botulino in un allevamento bovino che era legata alla presenza di una vicina centrale a biogas. Infatti alcuni dei batteri che poi si producono dalla combustione del dalla fermentazione che avviene all'interno delle centrali, poi si riversano all'esterno e sono anche di questo tipo il botulino, il tetano, diciamo di questo che, genere qua. Che tetano e botulino sono i batteri migliori per proprio innescare il processo di fermentazione, e se poi rimangono nel digestato e questo digestato diventa fertilizzante, compost, ti ritrovi appunto che il terreno è contaminato dal botulino e quindi che probabilmente le piante e tutte, insomma, i campi che verranno a contatto con questo tipo di fertilizzante avranno dei problemi proprio perché c'è la presenza di questi batteri dentro quel fertilizzante. Diciamo così che, così, da questi primi accenni, che sono solo degli accenni ma che comunque degli elementi ce li danno, che la questione delle biomasse e dei biogas comunque è una questione, come al solito, molto aperta, nel senso molto chiusa e molto aperta, come sempre capita l'innesto di tecnologie di tecniche, tecnologie, modelli di utilizzo anche delle risorse naturali si prestano a una serie di manipolazioni che raramente, se pensiamo semplicemente all'agricoltura, a quello che si fa in agricoltura con la chimica, che difficilmente possono essere considerate così, dire, senza conseguenze. Ma questo non sarebbe neanche il problema per certi versi, nel senso che è il problema fondamentale, non sarebbe neanche il problema nel senso che qualcuno potrebbe dire, così, con un po' di cattiveria, potrebbe dire vabbè, ma sono tecnologie che vanno raffinate, ci sono tecnologie buone, tecnologie cattive, ci sono sistemi, metodi, che di per sé da un punto di vista teorico potrebbe anche non essere neanche sbagliato, ma la questione che ci interessava approfondire oggi, oltre a questa parte generale che va comunque denunciata, perché laddove si usano tecnologie che sono potenzialmente nocive per la salute non c'è ragione di non denunciarlo, anzi c'è l'ottima ragione di denunciarlo a chi poi deve vivere vicino o comunque a contatto di questi impianti, ma anche a chi usufruisce degli alimenti indirettamente. L'altra questione che viene fuori da queste considerazioni è relativa proprio ai rifiuti, e qui, nel senso, entriamo un po' anche nel merito del senso un po' della trasmissione, anche degli interlocutori diversi, della possibilità di aprire una discussione, perché la parte relativa alle biomasse e biogas noi l'abbiamo estratta come ragionamento, come necessità di ragionarla oltre alla realtà sul territorio, da una proposta, sono in corso la raccolta delle firme, di iniziativa popolare sui rifiuti in generale, no? Quindi una specie di proposta di legge quadro. E io, con calma, mi piacerebbe ragionare prima della proposta quadro e quindi dei suoi contenuti, e poi anche ragionare nello specifico di quello che viene previsto per queste tecnologie, perché secondo me è interessante anche per capire dove vuole andare, come è fatta, a chi è rivolta, che possibilità politiche ci sono, che senso ha, quanto senso ha, aprire, diciamo, con un quadro un po' più generale. Per questo mi faceva piacere se Vincenzo, distratto dai giornali del giorno, ci voleva raccontare un po', o comunque insieme a voi, questa legge, da dove, come è proposta, da chi è proposta, che cosa c'è dentro e via dicendo. La legge ha l'obiettivo sostanziale di eliminare gli inceneritori e di eliminare le discariche, non solo, ma di far sì che nell'arco massimo di 5 anni si possa imporre alla situazione attuale del coloro i quali costruiscono, producono ovviamente materiali che attualmente non sono né biodegradabili né incompostabili, di introdurre all'interno di questa dialettica, di questo scontro, la possibilità che questo lo divenga, perché lo è già divenuto in una casistica ormai generale di paesi europei e anche paesi extraeuropei. Del resto c'è una raccomandazione a partire dall'ottobre dello scorso anno dell'Europa che indica nella data massima del 2020 la fine di qualsiasi incenerimento e la chiusura degli inceneritori. Questo avverrà o non avverrà dipenderà ovviamente dalla capacità di mobilitazione che c'è in giro. L'eliminazione della filiera dell'incenerimento e delle discariche fa sì che il guadagno in salute e il guadagno anche di natura economica oltre che lavorativa è enorme, si possono arrivare a quantizzare vari step ovviamente per poter sostenere che ce ne sono forse 150.000, forse 300.000 lavoratori, ma questo è per quanto attiene anche quello che ho fatto io in questi ultimi 5 anni tra le province di Roma, province di Viterbo e province di Rieti, dove comuni che vanno dai 1.500 ai 30.000 abitanti hanno fatto sì di assumere, laddove ce n'era uno, 4 persone, laddove ce n'erano 2, 8 persone, cosa di questa natura. Il guadagno finale, tra l'altro, è anche di natura economica nelle tasche dei cittadini, in virtù del fatto che dopo l'avvio ovviamente della raccolta differenziata e quindi arrivare a superare quel 60% che è già d'obbligo all'interno di quest'anno, per arrivare all'80%, dico all'80% già ci sono 144 comuni, c'è l'Associazione dei Comuni Virtuosi che ovviamente sta spingendo ben oltre, ovviamente eccetera, capite bene che non avremo più gli inceneritori perché manca la materia prima, non avremo se non limitate ovviamente ancora a un residuo che poi va oltremodo ovviamente selezionato eccetera, le grandi discariche a questo punto vanno solo che bonificate. Dentro questo percorso si situa la novità dei centri di raccolta, riuso, riutilizzo, come di scambio, che ovviamente in un comune come Capannori ha cominciato ad esistere, ma giusto perché è il comune di cui tutti quanti ci appropriamo, anche se di recente ha fatto fuori Alessio Ciacci, che è stato l'organizzatore negli ultimi 5 anni di quella che è andata avanti come raccolta differenziata fino all'83% in quel comune, salvo poi che ovviamente l'intervento sia della regione toscana sia del sindaco del PD ovviamente tendono a tutelare quello che rimane sul territorio toscano dei 3 inceneritori e delle 2 grandi discariche, per cui ovviamente non si vuole procedere oltremodo per raggiungere ovviamente gli obiettivi che si possono benissimo raggiungere, dico raggiungere l'obiettivo all'80% a partire dal 20% attuale, in 2 anni ci si fa se ovviamente si vuole dedicare spazi, energie, economie ovviamente a tutto questo, e capite bene il benessere che c'entra dentro questa proposta, in virtù del fatto che se manca una proposta a carattere generale ognuno si sente in grado di fare quello che gli pare, nonostante la vecchia legge Ronchi, per dire, che quella già annunciava ovviamente praticamente indirettamente la fine degli inceneritori, ovviamente questo non avviene senza una forzatura di legge e senza le relative sanzioni. A proposito di sanzioni, è di recente, cioè 10 giorni fa, la Corte dei Conti ha sanzionato modestamente per 8.000 e 12.000 euro i sindaci che non hanno ottemperato alla raccolta differenziata, e se tutto questo venisse applicato a partire dalle realtà, dei comitati, dei singoli cittadini nei confronti dei propri amministratori, questi avrebbero il pepe al culo ovviamente per poter cominciare a dire: ma io che colpa ce n'ho, mi mancano i soldi, c'ho questo qua. No, i soldi non mancano per fare tutto questo, lo abbiamo indicato più volte, non lo indica solo la rete Rifiuti Zero, ma lo indica il Movimento dell'Acqua, il Forum dell'Acqua, lo indica il Movimento per l'Energia Giusta e tante altre storie. La Cassa Depositi e Prestiti, che è l'ex banca pubblica dello Stato che detiene costantemente, annualmente, circa 300 miliardi nelle proprie casse, ovviamente c'ha un liquido di 180 miliardi, è necessitata a intervenire ovviamente sul benessere dei cittadini, sul benessere collettivo. Laddove non lo fa, anche questo ovviamente è una battaglia. La battaglia è appena iniziata, ne è nato un forum ovviamente che intende ripubblicizzare la Cassa Depositi e Prestiti, che è privatizzata al 30%, ma di cui però, da parte delle fondazioni bancarie, di cui però le fondazioni esprimono l'amministratore delegato. E beh, questa è una battaglia in corso ovviamente in virtù del fatto che si collega direttamente al risparmio postale, ci sono 12 milioni di cittadini italiani che risparmiano alle poste, appena hanno scoperto di essere stati frodati ovviamente dalla loro mettere da parte, da fare le formichine, hanno cominciato ad incazzarsi, e questa incazzatura a partire dai castelli romani per arrivare ovviamente qui a Roma, per arrivare in varie altre zone. Speriamo che diventi, come dire, l'altro tormentone affinché noi riusciamo, in un periodo ovviamente di conflittualità che ancora non è generalizzata nel nostro paese, a mettere a punto la complessività di cui anche in questa giornata si sta parlando. Che poi alla cassa è rimasto, c'è sempre Bassanini alla presidenza alla della presidenza, c'è Bassanini, no, così tanto per ricordare, no, insomma, Bassanini un esponente di punta del PD. Però adesso, a parte la cassa, la questione della cassa, il punto è questo, è un po' il quadro. Ti chiedevamo della legge di iniziativa popolare, ma tanto ci sarà tempo di parlarne nello specifico. Insomma, questo è un po' il quadro generale. Che fa una legge dentro questo contesto? Cioè, che cosa, al di là del fatto che muove, può aprire discussione, può spingere, potrebbe essere in teoria anche uno strumento diretto, nel senso, se mai fosse discussa. Poi sappiamo che spesso le leggi di iniziative popolari rimangono in un cassetto, però questo non toglie comunque un elemento di discussione. Detto questo, quello che ci interessava era entrare un po' nel merito, e quindi un po' proprio perché sollevavamo la questione del merito, e nel merito poi bisogna vedere che ci sta scritto dentro una legge, e per questo ti chiedevamo poi in generale, perché un punto, diciamo, critico che è emerso da questa trasmissione, questa riflessione, io è relativa a questo. Avendo da fare qualcosa a scrivere a casa, e ho sentito ovviamente questa spesso contumelia, le dico così, scusate, perché e si esprimono su cose che non sono vere. Per esempio, l'adesione della Lega Ambiente, mai esistita, è venuta richiedendo, ma non c'è nei 274 comitati aderenti, se volete venite a guardare quelli che sono. Ha chiesto di intervenire ora che sono state superate da 15 giorni le 50.000 firme, quindi la legge è già depositabile, attenderemo a diventarne 150.000, e gliel'abbiamo rifiutata in virtù del fatto che la struttura nazionale... Scusami, noi l'abbiamo vista sul sito, non l'abbiamo inventata questa informazione. No, non abbiamo sbagliato, cioè, l'alfabeto italiano. Mi dispiace, perché ti ho detto, è stato motivo di discussione anche sabato a livello nazionale, che c'è stata la riunione nazionale in cui alla Lega Ambiente non gli si dà nessun credito, in virtù che a livello nazionale propende ancora sull'inceneritore e anche sulle centrali a biogas. Vabbè, questa è una questione che, voglio dire, se l'adesione finire, non c'è, fammi finire un attimo. Se l'adesione non c'è, noi siamo però anche non ci contenti. No, però, non ci dimentichiamo che la polemica la dobbiamo fare tra di noi, sì, però soprattutto con chi ascolta, che capisce. Io lo dico perché, così, no, è importante. L'altra storia, c'è un scagliarsi tutti i giorni contro Andrea Masullo, che ho calmato ovviamente, perché siamo arrivati alle diffamazioni nei confronti di Andrea Masullo. Andrea, se vi porta in giudizio, ovviamente diventa un problema. Siamo sul microfono, però non si sente. Secondo me dovremmo andare un po' per ordine, perché noi abbiamo iniziato a parlare del biogas, delle biomasse, e poi della legge iniziativa popolare. Forse dovremmo spiegare qual è il legame, perché stiamo parlando di questi argomenti in questa maniera. Quindi, voglio dire, però, attenzione, appunto, perché non si capisce che il Comitato Albano, che lotta come tutti noi, devi stare vicino al microfono, se no non si sente. Lotta come tutti noi per impedire che la nascita del quarto inceneritore, per abolire tutti gli altri inceneritori, l'unico argomento che ha lunedì è quello di scagliarsi contro la legge di iniziativa popolare. Mo ci fate i conti, tra virgolette, politica romana, perché la legge c'è, i grillini, la complessità, il movimento, l'M5 Stelle sostiene la legge nella sua complessità, poco importa se qualcuno in Albano non è d'accordo, Sell appoggia la legge, quindi adesso si tratta di trovare la corsia preferenziale per poter metterla a votazione innanzitutto nella commissione ambiente e successivamente metterla in votazione, così capiremo ovviamente, nessuno pretende ovviamente che la legge sia quella di ognuno, come tutte le leggi iniziative popolari, se qualcuno ci ha mai messo mano da questo punto di vista, ma è sicuro che è un cazzotto in pancia, è qualcosa che innova completamente, perché andiamo a eliminare appunto inceneritori e discariche. Poi c'è l'articolo 14, ma adesso voi quali intervengo io? Sì, c'è già un intervento telefonico che noi prendiamo, anche non inaspettato, però devo dire la verità. Pronto? Pronti, eccoci, buongiorno a tutti. Sono Peppe dei Castelli, del coordinamento contro gli inceneritori di Albano. Bene, allora io non faccio parte del popolo, perché evidentemente non sono stato interpellato per definire questa legge di iniziativa popolare, però non manco quell'arsi però. Noi abbiamo fatto un'assemblea ieri alla borgata Massimina, che sta a ridosso della discarica di Malagrotta, e c'erano un po' dei comitati. Manco loro sono stati interpellati nella definizione di iniziativa popolare, legge di iniziativa popolare, per cui sto popolo intanto è già collocato da qualche parte, però non ci stiamo noi. Poi mi pare strano che una, come si dice, contraddizione, no? Una volta si chiamava così, che si vive all'interno dei territori venga eliminata da una legge. Bene, se questo è il punto di vista dei nuovi legislatori, è così, però dal punto di vista delle popolazioni mi pare di no. Ci stanno delle battaglie che si possono vincere e si possono perdere. Sulla questione degli inceneritori si sono perse quasi tutte, da Brescia fino a Cerra, eccetera eccetera. Noi che faremo i conti con la legge di iniziativa popolare, e capite bene che paura, per ora malgrado il Consiglio di Stato, l'ira di Dio, eccetera eccetera, il cantiere non ce l'abbiamo. Forse significherà qualcosa, forse, mica detto. In ogni caso, intanto, mentre valutiamo i codici e i codicilli, diamo un appuntamento per venerdì prossimo, giorno 7 giugno, ore 10:30, sotto la Regione Lazio, dove insieme a qualche altro comitato non saremo molti, non ci saranno le masse oceaniche, non ci saranno le moltitudini, eccetera eccetera, ci sta quello che ci può essere in un giorno feriale, eccetera eccetera, e cercheremo di porre alla Regione Lazio la questione della cancellazione delle autorizzazioni integrali ambientali per i gassificatori di Albano e Malagrotta, la chiusura definitiva delle discariche e la non apertura dell'invaso di Monti dell'Ortaccio, e per la prima volta porremo la questione delle centrali a biomasse, perché guarda caso le centrali a biomasse e biogas eccetera eccetera usufruiscono da un po' di tempo di una serie di incentivi molto appetitosi, che hanno determinato appunto la diffusione di queste pratiche, ma usufruendo di questi incentivi usufruiscono anche di un procedimento autorizzativo molto semplificato, che consente con un visto delle amministrazioni comunali di andare ad un ufficio della ex provincia ed avere l'autorizzazione all'impianto, quindi tagliando fuori completamente le popolazioni anche da quel procedimento sempre abborracciato, sempre falsificabile, ma che comunque formalmente c'era, delle valutazioni di impatto ambientale. Detto questo, quindi la situazione è questa: ci stanno dei movimenti, ci stanno delle caratteristiche di questi movimenti, più o meno forti, più o meno deboli. Che succede? Che c'è qualche genio che invece di alimentare quelle che sono le dinamiche di movimento dice: mo io te risolvo la pratica, una bella legge. Stessa cosa che è stata fatta con la questione dell'acqua, situazione identica che abbiamo con la situazione dell'acqua, per cui col cazzo che c'hai il 7% in meno sulla bolletta, col cavolo che c'ha le altre, i processi di ripubblicizzazione, c'hai quello che c'hai, cioè l'intervento privato industriale sulle questioni dell'acqua, c'hai al massimo tre piccoli pallini che pieno quattro soldi nelle segreterie nazionali di qualcosa, questo c'hai e non c'hai null'altro. Su queste vicende, Masullo, chi è Masullo? È l'ingegnere della Marco Polo e CSPA eccetera. Qua a me risulta che sia andato per esempio a Gennazzano a prospettare un suo impianto. Non so se c'è andato pure da qualche altra parte, a me risulta che sia il titolare dell'impianto di produzione del biogas dentro la centrale di Roncigliano, non lo so, a voi risulta, non risulta, bene, a me risulta che in Piemonte ci abbia altro e così via. Che fa questo querela? Benissimo, pronti, di solito ci ha querelato qualcun altro, di solito che in processo ci ha portato qualcun altro, ma se è questa la strada si accomodino. Chi è SEL che appoggia? Benissimo, io l'ho vista Sella, la vedo Sella nei territori, e si tratta sempre di clientele, si tratta sempre di sordi. E andiamo al merito di questa legge. Articolo 14 di questa legge di iniziativa popolare sostanzialmente fa rientrare le combustioni, perché dice soprattutto cambia incentivi, dai certificati verdi si passa ai certificati bianchi. Pronto? Sempre sordi so. sempre soldi so. Mi sembra un punto abbastanza chiaro, no, cioè sì, questo... in più si dice che questa legge cancella totalmente le combustioni. Non è vero, perché chiaramente consente la produzione elettrica da combustione per l'autoconsumo, e l'autoconsumo in queste centrali può arrivare al 60%, e questo è un dato di fatto. Si parla del biometano e si dicono cazzate, perché per far biometano, capito, non è che gli fai il solletico alla biomassa, la devi sottoporre a processi, e i processi costano in termini di energia elettrica e in termini di... È proprio su questo volevamo un po' ragionarci e dare degli elementi un po' a tutti per farsi un'idea. Pronto? Il signor Pira, pronto? Lo è stato per quanto riguarda le differenziate, e continua a essere oggi sulle biogas. E queste sono le sostanze, capito? Quindi la questione è questa, interveniamo su questi meriti. E ci proviamo, ci proviamo. E adesso ci proviamo, ci sono interlocutori qui in studio che ci stanno a provare, no? Ci sono anche delle persone qui in studio che vorrebbero provarci a spiegare tutta questa cosa. Ti ringraziamo. Grazie tante, ciao. Ciao. No, tanto per dare un'idea, adesso apriamo la discussione senza nessun problema, però mi scrivono un messaggino così, perché poi anche c'è questa difficoltà. Capisco la difficoltà, dice, ma vorrebbe la persona che ascolta che insistiamo un po' sulla connessione tra biomassa e proposta di legge, perché non è che si è capito bene. Ora, questo come servizio alle persone che ascoltano, perché poi noi non ci abbiamo problemi a aprire polemiche, tutte politiche, tra persone e anche tra persone che si conoscono e fanno attività, perché questa è una radio che non è che per forza si deve rivolgere alla casalinga di Voghera, scusate la casalinga, ma insomma è un modo di dire per dire l'ascoltatore occasionale. Però cerchiamo comunque di andare al di là dei fatti più specifici, perché sennò le persone non capiscono. Noi abbiamo accennato la questione legata a biogas, rifiuti e legge, perché la legge in generale, Vincenzo ce lo diceva prima, ce lo raccontava, prospetta in un quadro di lungo periodo, no? Cioè, comunque sì, di lungo periodo nel senso come processo, il processo di lungo periodo, cioè la riduzione della quantità di rifiuti, il passaggio alla differenziata e via via dicendo, una serie di step rispetto a quella che è la realtà delle discariche, la realtà degli inceneritori. Il nesso tra rifiuti, biogas e legge c'è, e proviamo a spiegarlo, perché sennò sembra che stiamo facendo una polemica sotterranea. Allora, io inserisco alcuni elementi. Allora, la polemica c'è perché, nel senso, nel territorio nei quali viviamo, grazie alla fantastica iniziativa del governo Monti, è arrivato questo incentivo alla produzione di energia elettrica da questi impianti, e come per magia, insomma, alla provincia di Roma, per quello che ne sappiamo, e alla provincia di Latina si parla di 160 progetti e 80 progetti depositati proprio per cercare di mettere in piedi una di questo tipo di centrali e incassare gli incentivi della produzione di energia elettrica. È evidentemente un business redditizio, che è un business del momento. Molti, che ne so, squali e squaletti cercano appunto di investire su questo tipo di iniziativa perché adesso è vantaggiosa. Nel giro di un anno si rientra dei costi della costruzione dell'impianto, e poi insomma c'hai l'auto di guadagni per, mi pare, una quindicina d'anni di contratto. E quindi questa è la cronaca, cioè quello che in questi mesi sta succedendo proprio per colpa dell'incentivo. Quindi parallelamente comitati un po' in tutta la provincia nascono proprio perché come funghi si vuole disseminare di questi impianti la regione, e questo è l'elemento da cui partiamo noi. Poi, per quello che riguarda la legge iniziativa popolare, alcuni capitoli, paragrafi hanno delle ambiguità che purtroppo fanno pensare al fatto che attraverso questo tipo di iniziativa questo tipo di processo economico viene messo nelle condizioni di andare avanti. Cioè, la forza di contraddizione è questa: ci sono 150 impianti da approvare e alcuni già in via di costruzione, ma la raccolta differenziata e quindi la materia prima pulita che servirebbe per da mettere dentro questi impianti è inesistente. Ancora di là di venire. E io sì, no, vi interrompo solo per una cosa perché c'è una persona che ci ha chiamato e no. Proviamo a sentire brevemente quello che c'ha da dirci. Pronto? Allora, buongiorno, brevemente è un po' difficile perché gli argomenti sono 1200, soprattutto abbiamo un problema, innanzitutto mi però presento. Comunque brevemente devi intervenire, sì. Prova a essere farò sintetico, farò del mio meglio. Allora, io sono Luca, come Peppe ieri ero presente al presidio della Massimina, quindi faccio parte di movimenti che non raccolgono firme ma si sporcano le mani sul territorio, certe volte ottengono dei risultati come è capitato a Genazzano, Guidonia, rispetto a degli impianti come il nostro a Cerveteri a biogas a 1 megawatt. Sono in corso 184 tentativi, ripeto, 184 tentativi di autorizzazioni o autorizzazioni date soltanto nella provincia di Roma. Se è vero che l'inceneritore mi scoccia paragonato perché è sempre una creatura che magari gli finisse in bocca a qualche speculatore, è paragonabile a un grande squalo bianco, così capiscono tutti, questi piccoli impianti a biomasse, che poi anche il biogas, non diciamo gassonerie, fa parte delle biomasse, soltanto il processo di combustione non avviene perché c'è un processo di digestione anaerobica, però io non, se no la gente diventa matta, non parliamo stratecnico, parliamo semplice. Ecco, questi impianti sono i piragna. Allora, se tu vai in fiume e ti aggrediscono 1000 piragna, lo so che il male maggiore assoluto è l'incenerimento e la discarica, ma 1000 impianti su 4000 chilometri quadrati che danno apportano all'agricoltura chilometro zero? Le belle parole. Allora veniamo a noi. Allora, innanzitutto noi non siamo né io né Peppe, che è il dottor Chemada, frati francescani che in cui siamo i propositori della LIP. Lo scopo della LIP, io voglio essere più obiettivo, mi date 5 minuti Cristo per parlare o no? Guarda, pronto? 5 minuti ti sei già presi, te ne damo anche, allora, se sei sintetico anche tranquillo, l'importante è che arriviamo a un punto. Cristo lo dico in maniera simpatica, come se che si è fermato a me. Ah, Cristo si è fermato a Debo, adesso si è fermato in provincia di Roma. Allora, cerchiamo di mettere un po' ordine. Questa è una legge che politicamente è altamente suggestiva, si capisce la parola, perché siccome non siamo tutti come il carne Lutti, insigne giurista, per chi ha studiato legge, non siamo tutti avvocati, è chiaro che se io faccio un tavolino e dico vieni a firmare rifiuti zero, de corsa, eco, bio, tutti i termini belli, ma che cosa c'è dietro? Il ragionamento l'ha fatto il giovane Vincenzo Migliucci, quando ha detto no a inceneritori e discariche. Noi lo sottoscriviamo questa cosa, però non ad altre porcherie. Allora, siccome noi stiamo passando, 30 secondi, dalla lotteria della discarica sul territorio o della lotteria dell'inceneritore, cioè a chi non scelino in mano, a con l'incambio della giunta regionale e tutto quanto, ha un sistema che io definisco sistema strategico a ventaglio. Cioè, che cosa vuol dire? Vuol dire è possibile bruciare nei cementifici, è possibile comunque un ultimo inceneritore, vedi Pizzarotti, Grilli, Parma oppure Albano che ancora è in lotta, lo fanno ancora entro il 2020 per sprecare altri soldi. Sono possibili altre discariche di servizio. Noi in paese, dietro la copertura della centrale a biogas, sullo stesso terreno che ha comprato questo inquisito che si chiama Giombini, ma è un prestanome, hanno scavato una cava profondissima portando via la terra. Che cercano? L'acqua come quando eravamo ragazzini? Non ci pigliamo in giro, non voglio dire una frasaccia. Allora, siamo passati a un sistema che tu ti alzi la mattina, ti trovi una centrale a olio di palma. Sai che vuol dire olio di palma? Vuol dire bruciare la foresta pluviale. Mi sembra che in tutta Europa ci hanno qualche problemino, i tornado in America 10 mesi all'anno. Allora, Il problema della LIP non è soltanto l'articolo 14, non diciamo canzoniere perché gli altri punti sinceramente vanno bene, perché poi bisogna essere anche un po'... Cerchiamo di essere un po'... Sì, hai detto altri 30 secondi, ma... 30 secondi va alla conclusione, dobbiamo rovesciare il problema. Ora che faceva bene a dire a Peppe, ci siamo passati, tutti siamo andati a votare per l'acqua pubblica. Cosa caspita è cambiato? Allora, io credo che invece sia il momento di costruire, ci vuole difficoltà, un grosso movimento che parta dal basso, che dia protagonismo, democrazia diretta ai cittadini. Allora, va bene la legge, ma la legge, c'era un detto calabrese che dice calabrese di costudia, l'umanato se ne va. Cioè, ora che pensiamo alla cura, hanno costruito altri impianti, hanno bruciato nei cementifici, e noi che va facciamo? Bene, tutto chiaro. Allora, rovesciamo la frittata, pensiamo a quello che sta succedendo a Piazza Taksim, pensiamo a mobilitarci, basta con chiarissimo, firme. Chiarissimo, ciao, perfetto. Che dovrei dire altre cose. E lo so, è tutti ciao, quanti, pure loro ciao, che stanno ciao, qui, ciao. Ciao. Allora, un attimo solo che abbassiamo le casse, perché sennò rimbomba tutto, e diamo subito la parola. No, io voglio due specificazioni. Beppe, cioè, ognuno pensa quello che gli pare, ma se uno pensa che il movimento dell'acqua non ha garantito e sta garantendo ovviamente la ripubblicizzazione a livello nazionale, state sbagliando su tutta la linea. Sembra che fate l'offesa qui alla radio a qualcuno, la state facendo agli italiani, ma intanto Napoli è diventata pubblica l'acqua e sta diminuendo la tariffa, perché voi sapete che il governo Monti ha subito aumentato la tariffa del 17% a fronte del 7% che avevamo guadagnato col secondo quesito. Reggio Emilia, Parma, Piacenza, Vicenza, Cremona, Mantova hanno deliberato adesso ad andare al percorso verso l'azienda pubblica. L'azienda pubblica di per sé non garantisce assolutamente, però è molto importante che a Napoli si siano introdotti almeno i comitati dei cittadini nell'ambito della consulta per l'acqua, che si chiama ABC, Acqua Bene Comune. Beh, queste saranno pure suggestioni come mi pare, ma per questo si sta lottando per benessere comune. Quindi un attimino un po' più di sagacia, come dire, no, per guardare intorno e in giro. Qui può intervenire anche ancora altri 3-4 comitati qui della provincia di Roma, ma vi sto dicendo, sono 372 i comitati che fanno parte di questa situazione. Voi non eravate manco nati, io ho pieno rispetto perché i più giovani che si mettono a fare queste battaglie meritano, non solo perché potrebbero fare tante altre cose, invece le fanno e con tanta sagacia. E la rete rifiuti zero è nata nel 2003 e tutta la rete rifiuti zero sta dentro questa battaglia. Che fate? La stiamo parlando questo, qui. E questo è un punto interrogativo. Scusa. No. Fammi finire, carino. Prego. Pensavo che è una pausa. Ora, la legge prevede nessun incentivo a nessuno. Nessun incentivo a nessuno. Non si brucia nessun incentivo. Poi, sulle biomasse e sulla biogas, la rete è in contrasto completamente su questo, tant'è che io personalmente sono andato l'altro sabato ad Assisi, dove si è incontrata la rete Terre Nostre, dove ci stanno tutte le battaglie contro le biomasse e contro i biogas. Ma sapete quante ne ha licenziate il governo Monti come autorizzazioni? 1186, noi 160 del Lazio, 1186. E ad Assisi c'erano 300 persone delegate un po' da tutta Italia, voglio dire, c'è dentro questo percorso. O si dà ascolto ovviamente a quella che è la complessità, se no c'hanno solo ragione Albano e altre storie. Dico, questa dialettica ammettetela in qualche modo. Finisco. Non ho capito, qualcuno me lo deve spiegare fino in fondo, non essendo io un chimico, non essendo io ovviamente uno scienziato, eccetera. Ma avete mai analizzato il gas per cui bruciamo a casa, accendiamo, fiamo il caffè e mangiamo in pentola? Beh, quello che ci metti dentro ha più o meno le stesse caratteristiche, non diciamo di no da questo punto di vista, perché o tu decidi di non utilizzare più il gas metano o quello che ti passano come metano, oppure ovviamente quello è, se dobbiamo dire, ecco, ieri proprio ho incontrato una famiglia rumena che fa 10 dei quintali di compostaggio e se fa la sua il suo biogas e ce va con la macchina, eccetera. Quindi vedete un po' a livello molto molecolare quello che succede. Che vedevo di dei contadini, li conoscete bene. Un quarto d'Italia fa con le biomasse proprio, cioè con gli scarti ovviamente dell'umido, se fa il suo compost ovviamente, se lo butta dentro e ci illumina ovviamente i propri terreni. C'è una telefonata, decidi se vuoi. No. Pronto? Pronto, sì, posso parlare? Sì, puoi parlare, però veramente brevemente. Guarda, perché come vedi qui lo scambio di battute, allora, è attivo. Allora, in primis voglio dire che questo gioco, che è venuto prima e dopo, cioè non porta sicuramente acqua al mulino della LIP, poiché sicuramente, se andiamo a vedere, sicuramente certe forme di opportunismo saranno anche precedenti al comitato di alla nascita del comitato Albano, a Malagrotta, eccetera. Adesso mettere di fronte, capito, il sostegno, cioè mettere prima, cioè il sostegno dei partiti come Sello, di alcuni meetup del Movimento 5 Stelle, che poi tra le altre cose si stanno ritirando quasi ovunque, e a quello che è invece l'intervento dei comitati, cioè, sui territori, mi pare assurdo. Comunque, vabbè, tre considerazioni, cioè, sulle cose che ho sentito dire, soprattutto da Vincenzo. La filiera degli inceneritori e discariche non è un problema di ordine linguistico, ma di scelte tecniche che non vengono separate poi di fatto con la valorizzazione energetica verde, chiamala come te pare, della Forzu. La raccolta differenziata, poi, se vogliamo fare una provocazione, non è una panacea di tutti i mali, cioè tra CDR, CSS per quanto riguarda il secco, e per quanto riguarda l'organico, invece, quelle destinate agli impianti cosiddetti bio, possiamo anche non farla questa raccolta differenziata. Idem anche per quanto riguarda cioè il concetto, proprio l'idea kantiana di verde e di biologico, non è per forza, cioè, tutto quello che viene dalla natura è assolutamente cioè innocuo. Nella digestione anaerobica, come abbiamo sentito prima, proliferano dei batteri, si formano delle tossine, come per esempio il botulino, cioè, che sono tra i modi più mortali che esistono. Io poi, tra le altre cose, chiamo da una zona dove la catastrofe, cioè, è già arrivata, cioè, non è che cioè, dove il sostegno a questa legge iniziativa popolare significherebbe anche andare in giro per la popolazione a sostenere, capito, la necessità di costruire questo tipo di impianti, e quindi infatti non avviene. Va bene. No, io voglio tanto dire che il mio intervento è educato, ma non per questo, cioè voglio ricondurre le critiche alla legge iniziativa popolare al gioco delle opinioni. La necessità di slegare la gestione dei rifiuti, che per noi è il recupero di materia, dalla produzione di energia, quindi elettrica e calore, non è un'opinione personale, ma una consapevolezza condivisa di chi vive e lotta nei territori. E se la no, questo è un punto veramente, ti interrompo solo per dire questo, che è interessante, perché è un po' il nodo, c'è questo nodo, questo è un nodo, sì, anche rispetto a chi dicendo, sì, io posso, velocemente, no, non posso, prego, dicendo che la LIP è soprattutto anche per noi, che non abbiamo mai condiviso, cioè questa modalità, capito, di intervento, è comunque per tutti, continua a essere occasione, cioè, di fare informazione, un rodaggio di quei meccanismi di partecipazione che comunque vedono la lotta auto-organizzata al momento più elevato. E non si comprende, o forse personalmente ho timore proprio di realizzare, qual è il senso dell'articolo 14 all'interno del corpo della legge. E qui sempre per l'imbarazzo, appunto, di trovare il senso reale di questa che definisco una marchetta nei confronti delle classiche filiere imprenditoriali, e ricordiamo che sono in fase di approvazione 160 impianti nella sola provincia di Roma tra biogas e biomasse, mi viene in mente un'ordine similitudine, capito, con altri momenti della storia del nostro paese, come per esempio il caso dell'incenerimento della gassificazione, in concomitanza con la propaganda di questo tipo di tecnologie. La funzione culturale informativa svolta da sedicenti ambientalisti già si è rivelata funzionale al sistema produttivo capitalistico. E chiarissimo. Io dicevo soltanto, ecco, che va un plauso quindi ai compagni, cioè, di Fiumicino, di Maccarese, d'Albano, ma anche quelli, cioè, di impatto dell'Officina di Fisica, la Sapienza, che non delegano questo ruolo di mantenere alta l'attenzione sulle scelte padronali e su la propaganda che sempre si accompagna. Ti ringraziamo. E quindi venerdì 7 giugno andiamo al presidio sotto la Regione Lazio, perché... Sì, tanto non odimo mai noi da qua, dalle frequenze onda rossa non si sente mai. Ciao. Grazie, ciao. No, perché insomma capita... Grazie per lo spot. Un punto che mi sembrava interessante relativo a questa questione energia riciclo, che poi si lega anche a una questione precedente sulla produzione stessa dei rifiuti, ha agitato anche la discussione, anche forse poco, però insomma è stato un elemento che, per esempio, all'inizio delle grosse crisi è emerso, quando sembrava che veramente c'era poco da fare. Io mi ricordo a Napoli, per esempio, quando all'inizio si è un po' ragionato sul fatto che c'era un problema, si è ragionato sulla possibilità di ridurre alla fonte, almeno in parte, la quantità di rifiuti. Era solo una delle questioni, no? Quindi il rapporto fra energia e riuso, e il rapporto fra produzione stessa del rifiuto, cioè quanto del rifiuto che viene prodotto è utile, quanto parte della produzione è utile rispetto agli scopi, senza voler entrare in scenari futuristi di anticapitalismo, nel senso non produciamo più niente, ma quanto di quello che viene prodotto è effettivamente utile, quanto degli imballaggi, quanto del rifiuto in generale. Era solo un prego. No, poi appunto, riagganciandomi a questo, metterei in evidenza che tipo di strategia politico-economica c'è alla base, perché se si attua sempre, se si sceglie sempre di trarre energia dai rifiuti, e se l'energia viene continuamente incentivata con dei contributi economici da parte dello Stato, ovviamente la produzione di energia è auspicata da parte delle aziende, da parte dello Stato, e quindi il ritorno economico nella produzione dei rifiuti fa sì che il rifiuto non venga disincentivato, bensì incentivato, cioè la cosiddetta via di waste to energy. Fino a che c'è un ritorno economico dal rifiuto, il rifiuto diventa una merce che ha un valore di mercato che è effettivamente molto alto, perché la diffusione, la questione dei rifiuti, la cosiddetta emergenza, che poi in realtà c'è, cioè, lo Stato è la norma, l'emergenza rifiuti in Italia, è prodotta proprio da questo meccanismo qua. Quindi fino a che non c'è una disincentivazione economica e non c'è una mancanza, cioè non c'è questo ritorno economico dai rifiuti, i rifiuti saranno sempre, cioè, una merce di scambio anche di alto profitto. E questo sicuramente c'è, è uno degli elementi sul tavolo. Volevo spezzare, cioè, volevo un attimo ritornare alla questione dell'articolo 14, cioè noi non diciamo che la legge popolare si auspica il finanziamento di questo tipo di impianti, in realtà si inserisce solo in una linea di governo che è già stata avviata ben prima e che, come dicevamo precedentemente, con il decreto Passera insomma si dà la possibilità di costruire questo tipo di centrali, che sono centrali a biogas, che sono... Questo è abbastanza chiaro, cioè che questo tipo di impianti sono... Sì, ma a livello economico in realtà sono è un tipo di industria fallimentare che esiste solo perché c'è un tipo di incentivo statale, altrimenti non avrebbe questo, su questo è vero che molta, e poi Vincenzo da questo punto di vista c'è, come dire, un monumento a questo, se pensiamo allo stesso nucleare, no? Cioè il fatto che alcune fonti di energia diventano economiche in virtù di scelte politiche e di prospettive industriali, di scelte di lungo periodo, è piena la storia dell'energia da questo punto di vista. Il calcolo economico non sempre poi è quello che, anche perché parliamo dell'energia, quindi parliamo di qualcosa che non è indifferente alla tenuta complessiva di un paese. Non voglio aprire scenari di cui non è il caso di parlare oggi, ma pensiamo alla nuova tecnologia della frammentazione, quella che stanno usando molto negli Stati Uniti per il gas, che sta portando gli Stati Uniti alla una specie di forma di capacità e autosufficienza energetica, con una tecnologia piuttosto complicata da un punto di vista ambientale. C'è una telefonata, però intanto prego. Sì, io volevo in realtà fare una precisazione, cioè dal punto di vista, una lettura dal punto di vista eminentemente politico di questo, di quello che sta avvenendo, perché questo fantomatico articolo 14 della legge iniziativa popolare, che invito tutti a leggere, è un po' complesso a livello di linguaggio, perché ovviamente è un linguaggio giuridico. Che fa? Cioè in realtà gioca su delle sfumature, nel senso, non vietando questo tipo di centrali, ed essendo questo tipo di centrali finanziate dal governo, naturalmente gli lascia via libera, nel senso dovrebbe semplicemente porre un netto no, cioè essere semplicemente più chiara sul tipo di pericolosità che hanno questo tipo di centrali, anche perché oltre ai finanziamenti che ricevono c'è anche una questione politica di fondo, nel senso, le aziende e anche lo Stato si è reso conto che non è più sia economicamente che politicamente vantaggioso appoggiare le grandi opere, perché insomma cronaca di questi ultimi anni che tipo di opposizione sviluppano, e questo tipo di centrali sono una risposta più polverizzata sul territorio, che polverizza anche la risposta dei cittadini e di chi si oppone dal basso, quindi è anche un modo per, cioè una forma di autotutela, cioè, da diciamo parte di strategia, va? Di strategia, diciamo, politica. Da questo punto di vista c'è un elemento di strategico, c'è sempre quella telefonata, non so se la vogliamo ascoltare. Pronto? Pronto? Non è più in linea. Pronto? No, non è più in linea, magari la facciamo richiamare. Allora, torniamo proviamo a rifare un po' di fuoco. Abbiamo fatto un po' di fiamme, proviamo a rifare un po' di fuoco, nel senso fuoco. Io lo ripeto, ovviamente, nel contesto sapete che non c'è un mixer tra le azioni sul territorio, i comitati che lottano, eccetera, e quella che è l'azione più generale. Del resto, che devo dire, che i compagni di Albano non vanno presso il TAR o presso il Consiglio di Stato o addirittura in Europa, cioè queste che sono mediazioni ovviamente le fanno pure loro, insomma, no? Poi hanno loro un principio ovviamente che ha carattere esclusivo, opinabile, ci mancherebbe, c'era, però voglio dire, bisognerebbe metterselo insieme alla massa dei comitati, dei collettivi che ci sono da Val d'Aosta fino giù in Sicilia, perché se no, benissimo, ognuno vince a casa sua, però qui il problema è di vincere veramente, insomma. Quando si stabilisce che non c'è incenerimento, che non c'è incentivazione, che l'obiettivo centrale, fin quando non arriviamo all'80% della differenziale, dico dal 60 già si chiudono gli inceneritori, ma qual è la differenza? Se no siamo pazzi da questo punto di vista, andiamola a spiegare veramente in giro, eccetera, e qualcuno dice, ah però quello l'articolo, poi arriviamo pure all'articolo e via di seguito, ma già vi ho detto, né incentivazione né combustione. Di più, chi vi parla, ma ovviamente non è che io devo parlare a nome di qualsiasi e di tutti, la SEN, cioè la Strategia Energetica Nazionale, ciascuno se l'ha letta, se l'è studiata, spero, voglio dire, eccetera, e quindi su questo siamo intervenuti diffusamente. Vi dico che la Strategia Energetica Nazionale è diventata decreto legislativo, quindi è applicata. Ha tre capitoli sulla vicenda dell'energia, tre capitoli. Il primo capitolo è la gassificazione dell'Italia, cioè che cos'è? L'Italia deve diventare l'hub del gas, congiungendo tutti i tubi possibili e immaginabili, costruendo l'ennesimo tubo che arriva, che parte da Brindisi e arriva in Emilia-Romagna, da dove arriva il gas ovviamente dalla ex Unione Sovietica, dalla Russia. 18 grandi depositi, 8 rigassificatori. Questa è la strategia dell'hub. Serve? No, non serve, quindi eliminata. Stiamo dando mani da tutte le parti affinché questa è, c'è nato un comitato enorme che è tutta la fascia adriatica, che da Brindisi ovviamente collega tutte le popolazioni in quel caso. Secondo capitolo sono le trivellazioni, con la fantasia di trovare petrolio, che se ovviamente Eleni... Solo un attimo, perché ho fatto una scorrettezza al telefono non voluta, c'era un ascoltatore che voleva intervenire, gli ho chiuso il telefono in faccia, lo avverto che richiama, perché sennò sembra proprio una cattiveria di quelle volute, prego. Dicevo, le trivellazioni ovviamente c'erano, ne sono state concesse anche qui circa 360-380 trivellazioni dappertutto, ovviamente c'era la ricerca di petrolio, che in Italia ovviamente ci avrebbe pensato l'Eni, che stanno aspettando ovviamente tutte queste, ma è subdola, perché attraverso l'acquisizione della licenza vanno, come la diceva Luca prima, a cercare il shale gas, cioè a cercare attraverso la tecnologia fracking, e quindi con la situazione già terremotata che vive l'Italia e quel piccolo bacino dell'Adriatico, ti ritrovi questa storia. Quando non ti ritrovi, come davanti a Pescara, un petrolchimico a mare, che è la prima esperienza assoluta dopo 50 anni di industrializzazione italiana che vogliono fare, e quindi 40.000 persone che si muovono a Pescara. Terzo capitolo è quello sugli agrocombustibili. Qualcuno ha pensato ovviamente di rubare un quinto del territorio agricolo rimasto, perché l'altro è tutto preda della cementificazione, per farci gli agrocombustibili, per farci ovviamente la trazione. Ma serve la trazione ovviamente, tra l'altro ovviamente con la penuria che c'è in giro e con la riduzione totale della trazione, cioè dei costi ovviamente del trasporto privato da questo punto di vista. Quindi queste sono cose che ci appartengono, è impossibile che non ci appartengono, stanno dentro queste vicende. Di più, la battaglia è contro le piccole, tutto quello che è sotto un megawatt, perché sotto un megawatt voi sapete che non c'è l'AIA, e sotto un megawatt fanno quello che fare, ma se gli elimini gli incentivi ovviamente hai eliminato la storia. C'è Aldo in linea, pronto? Pronto? Ci sei. Oh, allora io volevo dire qualcosa che naturalmente riguarda direttamente anche la legge di iniziativa popolare. Io ritengo che proprio dal punto di vista delle priorità al recupero di materia rispetto al recupero di energia, che poi tra l'altro è prevista anche da una serie di articoli e commi di legge, non sia diciamo così soddisfatta. Mi spiego meglio. E noi abbiamo un'alternativa da sempre, un'alternativa che tra l'altro è anche praticata e in qualche parte addirittura invece adesso riconvertita solo grazie agli incentivi, cioè in pratica il compostaggio aerobico. Da millenni la sostanza organica si trasforma in fertilizzante attraverso l'ossigeno dell'aria, attraverso i batteri, attraverso tutta una serie di interventi naturali che lo trasformano in un fertilizzante ricco di qualità, vera qualità. Veniamo al caso nostro. La digestione anaerobia, quindi i famosi maledettissimi impianti a biomasse e biogas che ci vengono riproposti e ripropinati anche nell'articolo 14 e vicini della legge di iniziativa popolare, fermo restando che tante altre cose chiaramente per forza di cose ovviamente sono accettabili, però dico, pone questo problema: se io faccio digestione anaerobica, innanzitutto privilegio l'energia rispetto alla materia, dopodiché, siccome ho privilegiato l'energia rispetto alla materia per motivi di incentivazione economica, mi paro il culo inventandomi una certa percentuale di recupero di materia sotto forma di successivo compostaggio aerobico, cioè in pratica quella schifezza che residua dal momento in cui abbiamo estratto del metano da là, e che sarebbe una cosa abbastanza indegna, classificabile soltanto come rifiuto, in realtà poi si fa uno sforzo sovrumano per riabilitarla, rinobilitarla e trasformarla in uno pseudo compost in qualche maniera commercializzabile. Questo è un falso. Io sono chimico, ho fatto decine di analisi sull'argomento, specifiche sull'argomento, ho confrontato compost diciamo provenienti da raccolta differenziata oppure comunque da sostanza organica in anaerobico e in aerobico, le differenze sono enormi. Quando noi andiamo a proporre a un povero disgraziato di agricoltore l'utilizzo di questo prodotto nei campi, dopo 3-4 anni sapete che succede? Aumenta la conducibilità elettrica, che tradotto in termini volgari significa aumento dei sali totali, aumento dei metalli pesanti, diminuzione dell'azoto a lenta cessione, perché è quello che poi fa crescere le piante lentamente a seconda di quanto gliene serve, mentre invece la metà di questo se ne va nelle falde, perché viene proprio attraverso il processo anaerobico trasformati in qualcosa di molto più semplice, di lavabile, con buona pace di tutti quanti. Quindi questo è un punto ineliminabile. Tra l'altro vorrei dire, per inciso, no, questo scherzetto del megawatt entro il quale questi impiantini proliferano e così via, all'incentivo del 0,28 centesimi sarebbe un bruscolino come 2.240.000 euro l'anno. Ora si dà il caso che dal punto di vista realmente economico, gestionale, questi impianti sono in perdita, lo sappiamo tutti, lo sanno tutti i tecnici, lo dicono ripetutamente, che un impianto di digestione anaerobica costa da 2 a 3 volte rispetto a uno di digestione aerobica, esclusivamente aerobica. E poi c'è sta il problema degli inquinanti, ma stiamo a scherzare? Un compostaggio aerobico non residua nulla. Se noi facciamo, anche alla luce delle cosiddette migliorie dell'articolo 14,3 eccetera eccetera, un impianto che mi produce soltanto biometano, cosiddetto biometano, non ho tolto nulla, io ho ancora tonnellate di percolati che non so che farci e qualcosa ci devo fare. Bene, sapete che cosa ci fanno nella 50% degli impianti? E tra questi c'entra uno di quelli proposto a Genazzano. Non so se su quello o sul gemello in cui è coinvolto il dottor Masullo, comunque ci fanno questo bel giochetto. In pratica il percolato viene riciclato sulla massa in digestione aerobica totalmente. Il percolato è una schifezza nera, sembrerebbe quasi di stare a estrarre il petrolio dal sottosuolo, con tantissimi inquinanti e così via, lo si riassorbe là sopra e in pratica lo si ingloba in quello che poi si venderà a quei poveri ignari agricoltori. Chiaro, chiaro. Noi ti ringraziamo per la chiarezza anche della spiegazione relativa a questo processo particolare, cioè per il processo. Ci sarebbe da dire tantissimo altro. Ma noi lo diciamo più tutti i giorni, cercavamo un po' di fare il punto sulla discussione in generale. Okay. Posso mandare anche documentazione se serve, documentazione scientifica, di supporto, non mi invento niente. No, ma noi ne facciamo ampio uso, mi pare. Ho sentito in okay. giro, insomma, la usiamo. Okay. Ti ringrazio. Va bene, ciao. Niente, ciao. Allora, proviamo a rifare un attimino un po' il punto della questione, perché è evidente che ci sono punti di vista differenti su questo e non sull'articolo 14. Io non voglio dare buona fede a nessuno, non conosco l'ingegner Masullo e non neanche mi interessa fino in fondo, nel senso, non è che non mi interessa, è importante sapere anche con chi si ha a che fare in generale quando si conduce una battaglia politica. E non mi stupisce neanche che siano presenti persone che buona fede o in malafede lavorino dentro, anche dentro aziende che lavorano rispetto a queste questioni. Sarebbe un mondo un po' ideale in cui da una parte ci sono solo il cittadino vessato, inquinato, e dall'altra c'è soltanto il capitalista cattivo. C'è un mondo di persone che comunque provano comunque a lavorare, a fare delle cose, adesso al di là della questione in sé. Però ci sono delle differenze. Le differenze secondo me non sono tanto sulla questione dell'anaerobico, rispetto al quale magari c'è anche una riflessione aperta anche fra i proponenti della legge, adesso non lo so, magari ne parleremo con calma. La questione magari è da capire un po' meglio, anche se secondo me si apre una questione di difficile soluzione, però io la vorrei lasciare sul terreno. Cioè la questione da una parte di che cosa fanno oggi tante realtà sui territori e dell'idea di poter, dentro questo schema, che è lo schema che mi sembra privilegiano un po' tutti, nel senso, al di là della polemica, io non credo che ci sia qualcuno qui contrario all'attività sui territori reali, su una cornice possibile che potrebbe, tra le altre, essere quella della legge di iniziativa popolare piuttosto che di un futuro referendum. C'è, sicuramente c'è, su questo c'è un attrito fondamentale, ma su questo però è un attrito tutto aperto. Io penso che le persone possono scegliere sulla votazione sul referendum sull'acqua, se è servito o non è servito, se è una truffa, se non ci porta a nessuna parte. Ben altre domande sono state fatte. Io penso, ne abbiamo parlato qui in radio, adesso non voglio fare quello che parla per un'ora, togliendo la parola a tutti, però per esempio una delle prime domande che ci facemmo qui in radio a valle del referendum sull'acqua era una domanda banale, però interessante. Ok, ripubblicizziamo l'acqua e i soggetti della ripubblicizzazione chi sono? I comuni e la politica che conosciamo dentro i comuni? Era una domanda, ma questo non è che è una domanda per cui no, allora non ripubblicizzo perché conosco la realtà della politica locale. Assolutamente. Forse era anche la politica locale deve cambiare radicalmente affinché fosse, sarà possibile un modo diverso da approcciare queste risorse. Ma erano domande aperte che secondo me vale la pena pure continuare a portare avanti. Voglio dire, bastava leggere la legge, no? Che è stata per due capitoli là dentro. La legge prevede che la gestione pubblica sociale dell'acqua viene stabilita tra l'ente locale, i lavoratori e le associazioni. E quindi quello che hanno fatto a Napoli. Scusate, no, parlavo. No, ma erano domande aperte, no? Nel senso che voglio dire, sull'efficacia. Dal punto di vista di quello che fa il forum dell'acqua. Devi parlare sul microfono. Il forum dell'acqua è chiarissimo. No, ma. E tutte le delibere di cui vi ho citato cinque grandi città, a partire da Napoli, ovviamente, adesso sono in corso quella di Torino e quella di Venezia. Partono da questo presupposto. Nessuno vuol ritornare al pubblico. Il forum ultimo che è nato si chiama Forum della Finanza Sociale, perché il pubblico non ci ha garantito un cazzo da questo punto di vista. Ah, è questo, è questo. Cioè, sarebbe una telefonata, un'altra, anzi c'è. Pronto? Sì, pronto. Sì, sei in onda. Sì. Ciao, sono Umberto del CREA di Guidonia, del Comitato di Sanamento Ambientale di Guidonia. Noi ci stiamo occupando da anni ovviamente di discarica di Guidonia, quella dell'Inviolata, e di tutto quanto quello che c'è connesso alle discariche, agli inceneritori, agli impianti TMB. E ultimamente una cosa che mi pare che per il momento all'interno di questa trasmissione sia sfuggita, il grosso pericolo, che non è solo un pericolo ma è una cosa ormai che sta andando già per la sua strada, dei CSS nei cementifici. E il caro ministro della devastazione ambientale Clini l'anno scorso fece un decreto per cui i rifiuti depurati della parte organica e più qualche altra piccola cosa cambiavano nome, si chiamavano CSS, combustibile solido secondario, e i rifiuti quasi tal quale, perché ripeto che viene tolto praticamente un 30%, veniva portato con questa nuova denominazione nei cementifici, nei forni dei cementifici, dove possono essere bruciati e naturalmente espandere per l'aria tutto quanto quello che sappiamo essere non soltanto PM10 ma le nanoparticelle, che passano, lo ripetiamo per l'ennesima volta, attraverso qualsiasi filtro. E questa cosa qua è stata abbastanza sottovalutata, non certo da noi di Guidoni e dintorni, perché noi abbiamo il grosso cementificio della Buzzi Unicem. Ricordo che nel CDA della Buzzi Unicem, fino al giorno prima di diventare ministro, c'era anche la signora Fornero. E questi combustibili solidi secondari sono stati battezzati l'anno scorso e sono in attesa in tutto il Lazio anche di essere bruciati nei forni dei cementifici. Questa cosa qua è particolarmente pericolosa, anche perché va in controtendenza rispetto alla raccolta differenziata, rispetto anche agli impianti su cui, contro cui ci stiamo battendo da anni, contro tutti gli altri vecchi impianti, diciamo discariche e inceneritori. E la soluzione che stanno trovando per il momento i grandi soloni dei nostri governi. E questa cosa qua viene sottovalutata anche purtroppo da molti che si buttano a corpo morto nelle battaglie cosiddette legalistiche come questa della LIP. Questa, la battaglia della LIP, io non ho nulla in contrario rispetto a questo tipo di battaglie, ma non devono essere uniche ed isolate da quelli che sono altri movimenti sui territori. La battaglia della LIP credo che possa essere una cosa onorevole soltanto da un punto di vista appunto di una parte, diciamo, dei movimenti, quella che pensa che dal punto di vista istituzionale ci possa essere una rispondenza e una, come stava dicendo prima Vincenzo, una vittoria possibile a livello nazionale, ma ho dei fortissimi dubbi non soltanto sull'articolo 14 ma sul fatto che questa LIP poi non possa di fatto, come qualsiasi battaglia di tipo legalistico, basarsi soltanto sulla possibilità che ci sia in Italia diciamo proprio una vera e propria possibilità di vincere dal punto di vista legale. Questa cosa mi sembra veramente demenziale, perché sappiamo tutti che la giustizia in Italia è quello che è, e sappiamo tutti che il Parlamento italiano è quello che è, e quindi pensare di con una legge, una proposta di legge, pensare di riuscire ad andare a scardinare quello che invece è un sistema molto più profondo, molto più ben oliato che c'è in Italia, non soltanto in Italia, credo che sia appunto abbastanza inutile. Va benissimo, noi ti ringraziamo per questo intervento. Ciao, grazie. Prego, ciao. Allora, torniamo qui in studio e torniamo a provare a mettere un po' di un po' di ordine. Ops, questo non era ordine, questo era disordine, era musica, dicevamo. Allora, sono le 13:19, abbiamo cominciato un po' in ritardo, quindi ci stiamo prendendo la mezz'ora che non avevamo utilizzato e quindi va tutto bene. Non perché ci sia un GR pronto, non credo, forse no, neanche. Però insomma proviamo a chiudere, cioè non a chiudere, ad aprire, nel senso poi a chiudere la trasmissione, però aprire la questione che credo abbia un futuro anche da questi microfoni. Ma io posso dire che insomma sabato scorso qua a San Lorenzo c'è stata una riunione, un'assemblea dove la legge è stata presentata. E verso l'ora di pranzo si è arrivati anche a parlare delle capitoli relativi a biomasse, biogas digestato. Insomma, l'intervento polemico c'è stato proprio su tutti questi aspetti. In altre circostanze non pubbliche non si è riusciti a ottenere, o comunque a ottenere una revisione di questi articoli. Sabato all'ora di pranzo invece, a quanto pare, un'apertura da parte dei proponenti proprio su questo tipo di articoli c'è stata. Insomma, uno ci si auspica sicuramente una chiusura più netta rispetto a questa situazione degli impianti che abbiamo citato fino adesso, proprio per il contesto in cui ci troviamo a vivere. Una diffusione enorme, una speculazione dei soggetti economici anche molto forti, che sono quelli che investono. Cioè, io sono ben contento che agricoltori producano il proprio gas per il proprio fabbisogno, ma è evidente che altri soggetti sono interessati a questo tipo di operazioni. E quindi, insomma, un'apertura sabato pomeriggio da questo punto di vista c'è stata, quindi tanto meglio. Poi logicamente rimangono sul piatto tutte le differenze sulle modalità di intervento e sulla proposta politica, ecco, ok, quelle rimangono comunque, però insomma questo aspetto, che magari per noi è di maggiore tutela rispetto a una situazione che vede in atto una speculazione pesante proprio su questo argomento, ci pare molto, insomma, necessaria, e probabilmente, insomma, serve anche pure per rasserenarci rispetto a quello che sta succedendo, e insomma i tentativi sono di vario tipo anche in questa direzione. Insomma, non so bene quando si potrà presentare una modifica, in che termini, in che tempi, però insomma la disponibilità. Vabbè, ma su questo, essendo una proposta di legge Iniziativa Popolare, conta forse più che la modifica, che è importante, conta l'acquisizione da un punto politico, la proposta che fai, perché poi insomma non è che stai a parlare di un quesito referendario che domani è quello e quello è, su quello hai raccolto le firme. Si tratta di che tipo di battaglia porti avanti. Fare chiarezza su questi aspetti dovrebbe servire, no? Anche perché, appunto. Vincenzo, se... Sì, no, io volevo, ci mancherebbe. Sì, il microfono è quello, quel coso lungo che c'ha... Sì, perfetto. Tutti noi lavoriamo ovviamente affinché ci sia la soluzione, come dire, che porta a casa il risultato. Ci sono differenze ovviamente, sia nelle considerazioni dell'acqua, sia nelle considerazioni ovviamente qui dei rifiuti. Volevo rispondere il compagno che è intervenuto prima, che siamo intessuti in tante vicende negli ultimi anni ovviamente eccetera, dico, ma che pensate, che la legge esclude i comitati? È proprio diversa, è proprio ognuno, per poter ampliare ovviamente il percorso, crea le condizioni affinché ci sia un'ulteriore forma di, la chiamo così, estremamente sintetica, propaganda, cioè quella di acquisire, comunicare ovviamente che c'è bisogno di una passaggio ineludibile, che è quello dell'abolizione appunto della filiera del rifiuto, e quindi arrivare invece a quella che è l'organicità della natura, insomma, in quanto tale. E dentro questo percorso non solo benvengano, ma io mi auspico di più, almeno favorirò, per quello che lo conosco pochissimo ovviamente, affinché ci sia un chiarimento con Aldo Masullo, perché ovviamente molli anche l'attività di consulenza. Così che ciascuno, indipendentemente dal proprio lavoro che svolge, ovviamente tante volte si può essere trovato o si trova invischiato ovviamente in determinate situazioni, lo fai in malafede, lo fai non in malafede, ma insomma dentro questo percorso ci puoi incappare da questo punto di vista. Per quanto riguarda me, per quanto riguarda la Confederazione dei Cobas, ovviamente, che sta in mezzo a tutte le reti a livello nazionale, io sto qui a Roma ovviamente eccetera, poi cerco di dare un'impronta ricompositiva, perché non mi piace agire per file parallele, per spezzettamenti. Non esiste il bene comune del rifiuto zero insieme al bene comune acqua, insieme al bene comune dell'energia. Noi la chiamiamo energia giusta, perché energia giusta sta per, non ne voglio né tanta né poca, vado raccontando in giro per aver avuto anche quell'esperienza di lavoro là dentro, che attualmente sono 108.000 megawatt installati, la punta invernale di quest'anno è stata 42.000 megawatt, quindi ci abbiamo bisogno dei centrali, ci abbiamo bisogno dell'aggiunta ovviamente delle biomasse eccetera, non ci abbiamo bisogno di un tubo, anzi ci abbiamo bisogno di una grande riconversione ovviamente eccetera, affinché a noi, almeno a noi, ci stanno anche su quel posto le rinnovabili, in virtù dello scempio che hanno combinato ovviamente in gran parte del territorio italiano, non solamente l'eolico. Diamo una mano ai compagni del Monte Peglia ovviamente, dove vogliono installare una centrale a 2,5 megawatt ovviamente di eolico, come tutto il Salento, quello che è successo in mano anche a certe speculazioni malavitose ovviamente. Dentro questo percorso, quantomeno l'energia per noi, quella necessaria e quella giusta, perché l'evoluzione rispetto a quella attuale, che è completamente privata, c'è bisogno di una parola magica che noi utilizziamo diffusamente, che è ripubblicizzazione, ma non ci limitiamo a quella. La ripubblicizzazione perché? Perché almeno puoi fare un piano energetico, perché oggi con i privati che gli impongo il piano energetico, quello risponde solo al consiglio d'amministrazione. Secondo poi, l'energia non può essere centralizzata, l'abbiamo imparato ovviamente, nonostante parecchi di noi provenivano dall'esperienza dell'Enel, che è stata necessaria ovviamente almeno per i primi 15 anni della loro esistenza, perché ha elettrificato il paese che prima non lo era, almeno quello minore, ma oggi è necessariamente decentrata. E poi devi avere il rispetto ovviamente di quello che le popolazioni, la vocazione di quella popolazione, l'interesse di quello che c'è, così elimineremmo anche tutte queste enormi masse di tralicci, di elettrodotti che passano e girano da tutte le parti. Ma quello che c'è un divieto assoluto è che se le licenze che il governo Monti, attraverso il suo precedente governo, e questo ancora confermando, non ha abolito ovviamente nessuna legiferazione precedente, insomma ci troviamo delle porcherie enormi, intendono prenderci per il culo, non rispettando ovviamente le varie AIA e tutte le, come dire, le imposizioni eccetera, hanno sbagliato di grosso, perché se troveranno contro, e se lo trovano già contro, l'insieme dei comitati. Il problema è avere le sinergie, o quantomeno quella pazienza dei costruttori per mettere insieme tutto questo, perché ho detto, anche a me che sono un po' abbastanza abituato, mi ha fatto sorprendere che ad Assisi 300 delegati provenienti da tutta Italia, l'ennesimo comitato forum rete che si chiama Terre Nostre, e che ovviamente loro sono solo lo specifico alle biomasse e al biogas, e quindi allora quello è un pezzetto di qua, quell'altro un pezzetto di là, sul territorio poi si conoscono tutti, si capisce perché non si fonda ovviamente il comitato rivoluzionario che vuole cambiare la situazione eccetera eccetera. E questa è la preoccupazione. Fermo restando, a proposito della legge, quindi sono sabato non è che c'è stata la presentazione è stata un mese e mezzo fa, sabato c'è stato un approfondimento di natura ovviamente scientifica, c'erano presenti veramente un sacco di storie, e poi c'era quel grosso amico che si chiama Ercolini, ovviamente, che ha avuto addirittura un premio Nobel sull'ambiente. Poi uno ci può credere o non ci crede a queste cose, però come dire, è stato selezionato nel mondo per aver dato queste battaglie, e Rossano fa queste battaglie da molto prima della nascita della rete rifiuti zero, e quindi le fa veramente, insomma, non è che ci sta guardando intorno. Ma l'opinione che noi abbiamo dibattuto, e soprattutto con quello spirito ovviamente, almeno per quanto mi riguarda, critico, ma ci mancherebbe, ma a noi ci interessa l'insieme di tutti i movimenti, non ci interessa, come dire, passare sulla testa di nessuno. E quindi mi auguro che per quello che è appunto leader di una legge di iniziativa popolare, voi immaginate, viene depositata in Parlamento. In Parlamento c'è, non hanno mai avuto votazioni di legge di iniziativa popolare se non tre dal tempo della Repubblica, cioè poi capisco che pulisce il culo che te serve a sti livelli qua. Però adesso ci sono i grillini come novità, e ci sono questi deselli, diciamo che ci sono 160 persone quantomeno nella commissione. Allora, quando si arriva in commissione, questo come atto burocratico, vedete, uno dice, allora l'accordo tra tutti i comitati è questo, l'accordo tra tutti i comitati è questo, è che l'articolo 14 assume questa cancellazione perché il compostaggio è solo aerobico, e voglio dire, se va bene a tutti e va bene a tutti, punto e basta, perché questa è la legge di iniziativa popolare. Quando andrà alla votazione? Boh. Quando andrà in applicazione? Boh. Intanto ovviamente però c'è un indirizzo che probabilmente la gente a livello nazionale ha capito. Io non so se volete aggiungere qualcosa. Credo che tutto sommato, e per non lasciare l'ultima parola a Vincenzo, perché non fa mai bene, scherzo naturalmente, mi veniva in mente rispetto a questa riflessione quanto di queste percorsi e battaglie sono lunghe nel tempo. Vincenzo, che lo conosceva molto meglio di me, che io ho avuto solo l'occasione di incrociarlo negli ultimi anni, quante battaglie abbiamo fatto insieme a Dario, e quanto rispetto alle vicende anche culturali e di analisi di che cosa c'era per esempio dietro un certo tipo di ambientalismo da un punto di vista della lettura più generale del sistema economico in cui viviamo, quanta ideologia c'era e quanto lavoro è stato fatto anche per cercare di costruire una rete, tessere una rete in cui la nocività del lavoro, le nocività ambientali venissero lette dentro una dinamica più generale. Ecco, così volevo chiudere ricordando Dario Pacino, che è stato comunque come dire, una persona che ci ha dato tantissimo da questo punto di vista, forse ancora prima che molti, fratello maggiore, molti grilli parlanti, non parlo di quelli che stanno qua dentro naturalmente, ma anche fuori, se pensiamo, e chiudo questa battuta, leggevo l'altro giorno, non c'entra niente, c'era Settis sulla Repubblica e parlava dei Realacci e della, del FAI, il Fondo Ambiente Italia, che ha sottoscritto, o perlomeno una sottosegretaria, ex presidente del FAI, ha sottoscritto questa proposta di legge sulla conservazione del territorio, che pare che sia, tolti i primi capitoli, tutto quello che c'era scritto nella legge Lupi precedente, un altro argomento, non c'entra niente, e via dicendo, tanto per rimanere comunque sul fatto che ci abbiamo di fronte, come dire, dei tentacoloni abbastanza forti. Noi ringraziamo tutti, naturalmente gli ascoltatori per la pazienza, chi è intervenuto al telefono e anche chi è stato qui a sudare. Grazie. Buondì.